Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Uno, nessuno e 100.000. Una trasmissione radio che ti fa capire che è meglio lavorare in radio che andare a lavorare. Uno, nessuno, centomila. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, per una nuova settimana di Uno, Nessuno, Centomila. Stiamo con voi fino alle 11. Siamo pronti con l'Alpino in regia, con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Lorenzo Nespoli è lì, sfoglia la Gazzetta, si occupa di sport da un po' di tempo, ma tornerà con noi effettivo e a mezzo servizio, nel senso che lavora il doppio, metà con noi e metà con lo sport. E con Leonardo Manera, che arriverà oggi virtualmente, Maria Pira Ceci oggi arriverà fisicamente, perché oggi ci occuperemo anche di scuola e di tante altre tematiche con voi, se volete chiamarci all'800240024, se volete whatsapparci, vi piace, ti piace Alpino questa, whatsapparci o smsarci 349-238-6666 e noi rispondiamo e sentiamo anche i vostri audio. Vai! I will not be easy and it will not be easy. Ho cercato di dare un po' di sprint perché oggi è lunedì e quindi noia, si riprende la settimana con tutte le cose da fare. Buongiorno Alessandro e buon lunedì! Sì. Vai di brutto che oggi si lavora! Yuppie! Sì, io dico riprendere la scuola perché ci sono persone che vanno a scuola, come i miei figli. Non tutte le scuole sono seggi, molti ragazzi invece non vanno a scuola perché ci sono i seggi aperti. Fino alle 15 non diremo quindi una parola, non faremo sentire neanche audio di politici. C'è la par condicio, le urne sono aperte, potremmo manipolare le vostre menti e consigliarvi chi e cosa votare. E quindi non lo faremo. Allora, dico, è lunedì, la noia si deve essere diffusa anche tra i titolisti dei giornali ieri. Apertura della Stampa, il Covid non ferma il voto. Apertura di Repubblica, il virus non frena il voto. Apertura del Corriere, il virus non ferma il voto. Grande fantasia al potere ieri tra i titolisti dei giornali per far capire che appunto è lunedì. Signori, a proposito di votazioni, ho scoperto, questo si può dire dal Viminale, che tutti i seggi sono aperti, tutto a posto. C'è stato qualche problema, sentiamo a Napoli una presidente di seggio che dice che sono stati reclutati gli scrutatori praticamente all'ultimo tra i volontari scendendo in strada. Purtroppo c'è stata una grave carenza proprio di scrutatori per quanto riguarda il seggio, infatti siamo dovuti andarli materialmente a reclutarli quasi per strada, perché a me per esempio personalmente su 4 persone nessuna delle 4 si è presentata. Nessuna delle 4, la paura, è la paura, anche se oggi partiremo proprio da qui, dalla paura e dai dati, per scoprire, basta che leggiate qualsiasi giornale, per scoprire che l'Italia è di fatto il paese messo meglio tra un po' di tutta l'Europa. In realtà i dati che oggi pubblica il Corriere della Sera, cioè i numeri di casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, casi per 100.000 abitanti, quindi è una statistica, è un numero secco. Non iniziate a dire sì, ma là ci sono meno abitanti, lì sono più distanziati, che non sappiamo la geografia e come vivono nelle campagne della Romania rispetto a quelle del Belgio, della Svezia, rispetto a quelle dell'Italia. Questo dato, che è interessante, è una proporzione, quindi i casi per 100.000 abitanti, noi abbiamo 33 casi per 100.000 abitanti, 30, tra l'altro, guardate, fate la proporzione, è 0,003%, cioè questo per dire, 33,5 casi per 100.000 abitanti. La Germania è a 25, quindi è messa meglio di noi, la Norvegia a 28, paesi come la Spagna è messa malissimo rispetto a noi, 300 casi per 100.000 abitanti, in Francia 185 casi per 100.000 abitanti, quindi questi sono i paesi messi un po' peggio. In tutto la polemica, sulla quale voglio salutare il mio primo ospite, sulla riapertura degli stadi. 1000 persone a evento sportivo, anche gli internazionali d'Italia, ovviamente tutti in proporzione, le partite di basket, insomma, si comincia a tornare sugli stadi. Grande polemica anche su questo, una tifosa la prende bene. È stata un'astinenza incredibile, per cui dai, speriamo che piano piano, un po' alla volta, qualcuno possa andare almeno a vedere i ragazzi e poterli sostenere. Vabbè, questa signora che poi dopo si è lamentata anche perché non si poteva fumare, dovendo tenere sempre la mascherina, era vietato fumare allo stadio. Io trovo la cosa giustissima. Roberto Bertollini, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Una vita all'OMS, oggi fa parte della Commissione Salute della Commissione Europea, è consulente anche per il Qatar, sempre consulente per il Qatar, per la salute, è un punto di osservazione molto interessante. Sì, sì, continuiamo questo impegno. Sì. Allora, se io dico, poi mi dice degli stadi, anzi ve lo dica subito degli stadi cosa ne pensi. Io quando ho letto degli stadi, tutti si chiedono, è giusto, è sbagliato, lo chiedo a lei che è più esperto di tutti noi sicuramente, io mi chiedo semplicemente, ma chi sono quei fortunati o sfortunati 1000 che possono entrare? Come si fa a entrare in quei 1000 di alla Garibaldi che vanno allo stadio? Ma questa è una domanda alla quale lei non può rispondere, o forse non lo sa. Assolutamente. Che ne pensa però della riapertura dello stadio? Ma guardi, io penso che quindi stiamo parlando di 1000 persone in stadi, parliamo degli stadi della Serie A, ma anche di quelli della Serie B, che contengono 20-30 mila spettatori, quindi una presenza veramente molto rarefatta. Qui è, di solito gli stadi sono all'aperto, quindi diciamo la possibilità di contagio è diminuita. Quindi se si mantiene la distanza e se soprattutto si hanno delle accortezze all'ingresso e all'uscita di queste 1000 persone, io credo che il rischio non esista. Non ci sia. No, anche perché, scusi, oggi io leggo Agostino Miozzo, del presidente del CTS, che in un'intervista effettivamente fa un paragone che, scusate, proprio devo dirlo, questo non c'entra, non è una questione di opinioni scientifiche, e paragona tutto a dire, attenzione, vi ricordate Atalanta-Valencia di Champions League? Ma lì non c'erano ancora le misure di protezione, non si sapeva nulla, non era partito, e quindi la gente si è ammassata, certamente, probabilmente ha dato vita a dei contagi, ma vabbè, non si sapeva ancora di mantenere una misura di sicurezza, e quindi non è un paragone che mi sembra improprio, no? Non è che si va allo stadio, sì, adesso anche, così. No, anche sì, diciamo che questa disposizione sembra, cioè ci porta a una lenta, progressiva, diciamo un lento progressivo ritorno a una sorta di normalità, diciamo molto diversa da prima, però diciamo è questo l'elemento fondamentale, la gradualità dell'introduzione delle misure, e questo è un dato importante in generale, non soltanto per gli stadi, diciamo tutte le misure nuove di ritorno alla normalità devono essere fatte gradualmente, quindi a me sembra che questa decisione sia abbastanza positiva. Corretto. E non ho nessun elemento di critica, diciamo, in questa fase. Senta, le chiedo, siamo i meglio messi d'Europa più o meno? Se uno guarda la Spagna, ora ci sono anche manifestazioni contro le restrizioni e si rischia un po' di coprifuoco qua e là, soprattutto a Madrid. A Parigi sappiamo, la Francia e anche altri paesi sono messi peggio di noi, questo a giudicare dai dati che io ho letto per 100.000 abitanti. È così? Guardi, effettivamente i dati ci dicono che l'Italia insieme alla Germania, ai paesi del nord, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia sono il paese in cui la situazione è ancora, diciamo, sotto controllo. Certo, guardando la mappa fa un po' impressione, sembra che siamo circondati, perché diciamo, sì, da un lato sì, da una parte abbiamo la Francia, la Spagna, al nord abbiamo l'Austria, la Croazia, quindi insomma è una situazione. Anche la Svizzera un po' particolare. Ha quasi il doppio dei casi di noi, 62 casi su 100.000 abitanti, noi siamo a 33. Esatto. Ora, diciamo che questa situazione deriva probabilmente, diciamo, dalla diminuzione della circolazione del virus in Italia in questa fase, nonostante il, diciamo, il rilassamento che c'è stato quest'estate e quindi in aumento di casi che c'è stato nelle ultime settimane. Mi ricordo che in una settimana noi vediamo, cioè in un giorno noi vediamo quello, il numero di casi che vedevamo in una settimana all'inizio di luglio, quindi comunque c'è stato un aumento anche in Italia, però è più contenuto probabilmente perché da un lato il lockdown precedente è stato molto severo, quindi il virus è stato, diciamo, messo sotto controllo meglio. Dall'altro forse le misure di controllo che abbiamo messo in piedi sono abbastanza efficaci e la situazione sembra essere sotto controllo, le scuole sono ripartite da pochissimo, anzi in alcune regioni sono manco ripartite, quindi credo che bisogna avere un po' di prudenza e aspettare e vedere se la situazione effettivamente rimane quella che è. Se è quella che è, diciamo, è buona. Ho ancora due domande e poi voglio introdurre anche un'altra ospite, Bertolini. La Svezia. La Svezia è un caso studiato a livello mondiale. Sappiamo che la Svezia non ha mai chiuso nulla in maniera, ha solo invitato le persone a rispettare le regole di buonsenso, mascherina, distanza, lavare le mani, eccetera. La Svezia si trova in questo momento a 28 casi su 100.000 abitanti. Noi, ripeto, siamo a 33, quindi anche meglio dell'Italia, uno dei paesi con il minor numero di contagi per 100.000 abitanti. Che possiamo dire sul caso Svezia? Guardi, io sulla Svezia in tempi non sospetti ho sempre detto aspettiamo a giudicare quello che succede in Svezia, perché i colleghi svedesi e la sanità pubblica svedese non è fatta di incompetenti, è fatta di gente che sa quello che fa. E secondo me la Svezia ha adottato un modello che ha prodotto dei risultati diciamo positivi da questo punto di vista, ma anche negativi, perché hanno avuto un'alta mortalità, certo, che è molto, non molto lontana da quella italiana, quindi voglio dire una situazione di questo tipo. C'è da dire una cosa che spesso non viene sottolineata, cioè gli svedesi sono gente disciplinata. Se il governo si fida dei propri cittadini, gli dice guardate ragazzi, qui non dovete fare questo, non dovete fare quell'altro, non dovete fare quell'altro, c'è un rispetto, diciamo, un'attenzione maggiore a questo. Ora, l'Italia ha fatto il suo lavoro abbastanza bene, diciamo, nel periodo del lockdown, però poi abbiamo visto quello che è successo d'estate. Cioè, quindi, gli svedesi sono svedesi, titolo, gli svedesi, esatto. In Svezia ci stanno gli svedesi. Esattamente, in Svezia ci stanno gli svedesi, e quindi bisogna pure considerare anche questo. Ora, io credo che poi i conti, tutta questa vicenda, andranno fatti poi alla fine, quando avremo i dati complessivi, finali, eccetera. Però io credo che bisogna ragionarci molto bene sul modello svedese. Ora, ridico, c'è una cosa da dire, abbiamo capito che questa malattia si diffonde negli ambienti chiusi, nelle famiglie, nelle residenze degli anziani, quindi in alcune situazioni molto particolari. Quindi credo che bisogna, come dire, focalizzare i controlli nelle situazioni dove la malattia si distribuisce più facilmente. Quindi questo è un elemento che probabilmente anche in Svezia, nella fase diciamo nella fase passata, ha agito in maniera significativa. Sì, allora rimanga con noi Bertolini, adesso poi ho anche altre domande, ma voglio salutare una dottoressa. Luisa Sodano è medico specializzata in igiene e medicina preventiva, ha curato un libro che si intitola Emozioni virali, le voci dei medici dalla pandemia. Il pensiero scientifico editore. Buongiorno dottoressa Sodano. Buongiorno, grazie di essere buongiorno qui. A lei. Perché è una serie di racconti, sono racconti di donne soprattutto, tutte medici, che raccontano tutti questi mesi di persone, si può dire al fronte, dottoressa Sodano, un po' sì, dai vari fronti, no? Perché la necessità di raccontare quello che è stato questa pandemia fino adesso? La necessità è derivata da un senso di profonda solitudine dei medici durante il lockdown, in particolare ovviamente nelle regioni più colpite dalla pandemia. E quindi si è riversata praticamente in questi racconti, ma prima di tutto si è riversata in un enorme, grandissimo gruppo Facebook che è stato creato all'inizio della pandemia dal collega Milo il Grande, chirurgo catanese, e infatti il libro nasce nell'ambito di questo gruppo Facebook, nasce da una mia idea perché leggendo i post che venivano scritti dai colleghi mi sono resa conto che oltre agli aspetti scientifici, agli aspetti tecnici, agli aspetti professionali tutti quanti avevamo bisogno proprio di raccontarci, di raccontare anche le fragilità dei medici di fronte a questa malattia sconosciuta, la loro solitudine e tutte le conseguenze di una impreparazione abbastanza diffusa a tutti i livelli, e i medici erano consapevoli di questa impreparazione. Ecco, ma le chiedo anche un'impreparazione del sistema, spesso si è detto che questa pandemia ha messo in rilievo forse un depotenziamento del sistema dei medici di base, per esempio, che è venuto evidentemente alla luce adesso quando ci si è trovati in questa situazione. Queste storie lo confermano o no? Sì, noi abbiamo parecchi racconti di medici di medicina generale e direi che queste storie confermano questa impreparazione di sistema e a livello individuale non solo dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, ma anche forse in parte dei dipartimenti di prevenzione. Mi consenta di parlarne perché sono un igienista, ho lavorato in questi dipartimenti oltre che in ospedale e sono un cardine della prevenzione e del sistema di allerta rapido praticamente in queste situazioni, nelle emergenze. Quindi sicuramente questi racconti in qualche modo sono espressione attraverso le emozioni e le esperienze del vissuto dei medici anche di queste situazioni di difficoltà di sistema. Io lo confermo, sì. Lo conferma. Bertolini, però noi abbiamo sempre detto che il sistema sanitario nazionale, almeno mio, come dire, opinione da utente, da cittadino che paga le tasse, mi sembra che il sistema sanitario nazionale italiano sia un vanto, un qualcosa di cui dovremmo vantarci in tutto il mondo. Per quel che riguarda, lei che ne pensa invece della questione rapporto cittadini, medici di base, si è molto discusso invece di questo tipo di rapporto alla luce di quello che è successo? Ma io credo che il sistema sanitario italiano, attraverso la presenza di medici di base e di pediatri di famiglia, ha un'articolazione che risponde a alcuni dettami, diciamo, della sanità pubblica che si sono sviluppati nel corso degli ultimi decenni, che sono quelli che basano l'assistenza sanitaria sulla salute primaria, sulla primary health care si chiama in inglese, che è quello che significa l'assistenza di base. L'assistenza di base è essenziale perché la gente non deve andare in ospedale se non quando questo è necessario. Quindi se noi rafforziamo la struttura dell'assistenza di base, la rafforziamo anche rispetto a una possibile nuova pandemia nel futuro, ma anche in generale rispetto alle malattie croniche, perché i pazienti trattati nel territorio stanno a casa loro, vengono trattati per le patologie semplici in modo semplice, in modo adeguato alle loro necessità. Questo significa anche decongestionare gli ospedali e fare in modo che gli ospedali facciano il loro lavoro. Facciano il loro lavoro, cioè quello dei casi acuti, dei casi gravi, eccetera, eccetera. No, attualmente, come lei sa, in alcune situazioni la gente va direttamente in pronto soccorso perché non avendo un'adeguata, come dire, rete di strutture sanitarie sul territorio. Sì. Io penso che bisogna investire molto su questo, perché questo è la chiave del futuro. Io vorrei concludere con una domanda a testa, a cominciare dalla dottoressa Sodano, sul tema della paura, no? La paura dei cittadini. Tra l'altro nel libro, che voglio ricordare, il libro c'è anche una postfazione di Andrea Vitali, che è un grande scrittore, oltre che per tanti anni è stato medico di base. Dottoressa Sodano, la paura dal punto di vista dei medici che raccontano e la paura dal punto di vista dei pazienti, a che punto siamo secondo lei? Adesso siamo sicuramente tutti più consapevoli e in qualche modo più formati. Io penso che questo livello di educazione sociale alla prevenzione è fondamentale. Le tre famose regole che chiamo comportamenti virtuosi sono semplici. La prevenzione è fatta in realtà di cose semplici che a volte sono estremamente efficaci. Personalmente mi sono occupata per tanti anni di infezioni ospedaliere e per esempio l'igiene delle mani è una misura cardine per tutte le infezioni che vengono contratte in ambito assistenziale e in ambito comunitario, però bisogna anche saper fare l'igiene delle mani con il prodotto giusto, al momento giusto, con la modalità corretta, così come l'uso della mascherina, anche è molto semplice, ma anche qui bisogna educare le persone a usarla in modo appropriato, quando serve, evitando che si contamini, e così anche la famosa distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza è un altro cardine della prevenzione delle infezioni respiratorie che si trasmettono attraverso le goccioline. Questo noi lo sappiamo da moltissimi anni. Quindi la prevenzione è fatta di cose semplici che devono diventare un patrimonio culturale, comportamentale della popolazione in generale Ed è su questo che noi stiamo giocando questa partita, soprattutto in questo momento. Su questa cosa però credo che poco alla volta gli italiani abbiano capito bene. Io ricordo il libro di cui lei è curatrice, Emozioni virali, le voci dei medici dalla pandemia. Ringrazio Luisa Sodano e ringrazio Bertolini, al quale faccio questa domanda sulla paura e su questo. Arriva sempre questa considerazione, ma in Svezia appunto c'è stato un alto tasso di mortalità, ma in Svezia c'è chi mi scrive so di ultra 65 anni che non sono stati neanche operati. Adesso io non lo so. La questione, Bertolini, abbiamo già discusso, è anche un approccio alla vita che, su cui si può discutere filosoficamente per ore e ore, se vogliamo. Cioè, forse in Italia abbiamo rimosso la cultura della morte da anni, per cui non ne vogliamo sentire neanche parlare, neanche sentirla nominare. In realtà poi è un qualcosa che prima o poi tutti purtroppo dovremo affrontare. Allora, ci sono culture, cito la Svezia, dove c'è un approccio più sereno verso questo tipo di fine e per cui non si vive nel terrore, o questo conta anche in una pandemia oppure no? Guardi, io non sono un filosofo e né un sacerdote, quindi non ho questa conoscenza, però devo dire ho vissuto in Danimarca per parecchio tempo e ho per diversi anni, e la cultura del nord Europa, per esempio, una cultura in cui la vita viene presa in modo un po' più naturale, cioè le cose importanti della vita sono importanti, le cose drammatiche sono fonte di dolore, ma sono affrontate con un atteggiamento leggermente un po' diverso dal nostro. È un po' quello che lei diceva adesso, cioè un atteggiamento un po' più di accettazione del ciclo della vita. Che non vuol dire abbandonare le persone al proprio destino, non curarle, cioè è una cosa un po' più profonda, no? È che cosa intendiamo per vita Prego. Sì, io ho avuto questa impressione, ripeto, un'impressione del tutto soggettiva, senza nessuna base di carattere, come dire, filosofico, però ho avuto l'impressione che ci fosse questo atteggiamento più concreto, più realistico. Nel nostro caso il tema effettivamente è stato rimosso dalla discussione. Se lei pensa ai dibattiti sull'eutanasia, sui problemi delle persone che hanno malattie, diciamo, mortali, eccetera, eccetera, c'è questo atteggiamento un po' dicotomico in cui si preferisce non discutere di questo, oppure si preferisce assumere una posizione proprio... c'è ancora l'atteggiamento, si parla di quello, mi tocco, cioè o tocco ferro, capite? Finché è così il livello culturale si fanno pochi passi in avanti, ma questa è una mia chiusa un po' polemica, non sua. Bertolini, la ringrazio. Ma lei è interista, mi hanno detto? Ma è vero che lei è interista? No, io sono romanista, mio malgrado. La posso reinvitare tranquillamente. La posso reinvitare. Grazie a Roberto Bertolini per essere stato con noi. Buona giornata, ovviamente. Fatemi fare una cosa molto sessista in questo momento. Aspetta che mi piego un attimo, devo controllare una cosa. Maria Piera Ceci, eccoci qua, non è venuta in gonna, è venuta coi pantaloni. Scusa. Ciao Maria Piera. Oggi, io di solito vengo sempre. Di solito sempre coi pantaloni, ma dovevo fare questa pantomima simile radiofonica. Perché c'è questa non parleremo solo di questo, ma se volete c'è questa polemica perché al Socrate, liceo di Roma, la vicepreside avrebbe detto, perché poi dopo sono nate le cose si sono un po' chiarite, comunque è interessante lo stesso quel discorso. Avrebbe detto: ragazze, non venite in minigonna che poi si vede tutto e ai professori casca l'occhio. Ecco, questa parte ai professori casca l'occhio pare che non l'abbia detta. Lei dice: non l'ho detta, ho detto solo adottate un dress code adeguato. Sì, in effetti anche la studentessa un po' ritrattato, però poi ne parliamo. Ne parliamo tra poco. 1 nessuno 100 Milan. Niente, si sta litigando. Adesso basta Maria Piera Ceci, adesso ancora mezza parola e ti sbatto fuori dalla classe, va bene? Non se ne può più. Stiamo già litigando per la gonna. Stiamo già litigando per la gonna. Lei, vabbè. Voleva venire in gonna, non me l'ha fatto fare, quindi stiamo litigando. Metti lo stacco alpino, ma mettilo sulla canzone, che così riduciamo un po' la, come dire, il livello estetico. Tutti a scuola, ci vuole. Ecco, così già. Tutti a scuola mica tanto poi. Non lo dobbiamo rifare. Dobbiamo rifare questa sigla. Mi diceva Maria Piera Ceci cosa succede nella penisola allora, sorrentina. Allora succede che domani si torna a scuola in Sardegna, come previsto da calendario eccetera, però nel corso dei giorni ci sono alcune zone, alcune città, perché alcune sono davvero città neanche tanto piccole, che stanno rinviando ulteriormente. A Torre del Greco, pensate, in provincia di Napoli, la riapertura ormai è prevista al 1 ottobre. Ah, di che al anno? Al 1 ottobre. Di che anno? Credo quest'anno, credo. Oddio, non ho fatto una verifica e noi giornalisti dovremmo fare sempre delle verifiche, però... Lasciamoli ruminare queste giovani generazioni, far diventare come dei caproni ignoranti in giro per le strade. Dicono che non sono ancora arrivati i famosi arredi, quindi il banco monoposto. È vero, perché per scelta sono state privilegiate le regioni del nord perché più colpite dalla pandemia, anche un gesto, come dire, simbolico, no? Dopodiché forse, non so, fai una... Ma la scuola non sarà mica didattica importante. A distanza, almeno, non so, qualcosa. L'istruzione dei ragazzi non sarà mica una cosa che conta. Adesso sei venuta qui a ma dire... Ma chi se ne frega? No, discutevamo delle gonne su questo, di perché al Socrate di Roma io sostengo. Se la frase detta dalla vicepreside, cioè non mettetevi, la riassumo così, non mettetevi le minigonne che si vede tutto, e ai professori maschi casca l'occhio. Questa seconda parte, ai professori sembra casca l'occhio, sembra che non sia stata mai detta. Però, allora, per me, Alessandro, stavamo già litigando. Tu hai ragione, noi giornalisti dobbiamo fare ammenda perché a volte davvero riprendiamo le notizie che cominciano a circolare sui siti eccetera senza verificare, noi compresi, a volte siamo un po' leggeri su questo e dovremmo stare più attenti. Detto questo, quindi dimentichiamoci il Socrate perché non siamo riusciti a verificare, ma ieri ho sentito un'intervista anche alla ragazza del consiglio d'istituto e in effetti ha detto che questa seconda parte, prof Cadell'occhio, non è vero. Lasciamo perdere il Socrate, però dobbiamo prendere atto che nelle nostre scuole ormai c'è una generazione di studenti che è molto sensibile agli argomenti delle questioni di genere, per fortuna, in una maniera che noi, Alessandro, che ci consideriamo anche molto aperti, molto liberali, non riusciamo neanche a capire. Io a volte davvero di fronte ai miei figli mi fermo perché non riesco a capire. Quindi è l'occasione questa, a prescindere dal pretesto, è l'occasione per ribadire determinate cose, cioè le donne si vestono come vogliono e soprattutto i ragazzi, perché ho guardato un po' in rete, si sono sentiti offesi loro come maschi, perché agli uomini non casca l'occhio, se no gli deve cascare. Sulle donne si vestono come vogliono, oppure gli uomini si vestono come vogliono, qui c'è il grande dibattito sul dress code, come direbbero gli inglesi, no? Certo, dobbiamo ricordare. In chiesa generalmente non vai con il sedere di fuori. Certamente. E al lavoro non vai in infradito e bermuda, in genere. Poi... Però guarda caso, nelle scuole molto più spesso viene ricordato il discorso delle minigonne piuttosto che il discorso... Sicuramente. Pantaloncini corti per i maschi. Ai salesiani, mio figlio è salesiano, dicono in teoria il bermuda sopra il ginocchio per i ragazzi non va bene. Giusto, cioè, nel senso dicono sarebbe meglio, poi non è che ti bastonano, però ti dicono sarebbe meglio mettere i pantaloni non sopra il ginocchio, cioè se no una rabbia con i ragazzi da calcio. Devono anche capire che ogni luogo ha un suo modo di parlare e un suo modo di vestire. Ma vogliamo chiederlo a una presi, l'abbiamo chiamata per altri motivi, ma Alessandra Rucci, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Alessandra Rucci, questa un'amica di Radio 24, lo possiamo dire, perché io quest'estate sono andata a visitare la sua scuola, bellissimo, ho postato le foto, tra l'altro sono stata anche criticata perché hanno detto ma tu posti le foto della scuola più bella d'Italia come se fossero tutte così, ma lo possiamo dire che qualche scuola funziona ed è bella o no? Cioè, mi devo sentire in colpa perché ho pubblicato le foto e le immagini, che è il Savoia Ben in Casa di Ancona. Lei avrebbe fatto questo discorso alle ragazze o ai ragazzi sul vestito? Ma guardate, io penso che voi abbiate perfettamente sintetizzato la questione. che è una questione di delicato equilibrio tra i luoghi, no? In cui ci si trova e l'abbigliamento che può essere adeguato agli stessi. Certamente un codice di abbigliamento nelle istituzioni anche scolastiche sarebbe opportuno e richiesto, ma questo non ha nulla a che vedere con il cade l'occhio all'insegnante, quindi io spero veramente che la questione non sia da ricondurre a questo, ma semplicemente ad un'educazione che dobbiamo ai nostri ragazzi sull'opportunità di avere, insomma, il giusto comportamento e il giusto codice in ogni luogo. Però preside adesso Maria Pia De Ceci le fa due o tre domande sulla sua scuola, ma io devo dire una cosa a un messaggio di un ascoltatore che dice: comunque la frase non è di Socrate. No, caro ascoltatore, hai messo insieme alcune cose, è successo al liceo Socrate di Roma, non c'entrano frasi di Socrate. Vabbè, andiamo avanti. Vai. Allora, noi abbiamo chiamato Alessandra Rucci perché, appunto, dopo aver visto l'infaticabile e testimoniato sul sito, c'è ancora il video, la fatica di Alessandra Rucci, dirigente scolastico di Savoia Benincasa di Ancona, di metter su una scuola che potesse accogliere i suoi studenti nel migliore dei modi, nonostante tutte le norme di sicurezza complicate anche da seguire, è successo il patatrac. Avete riaperto e poi, Alessandra, c'è stato un incendio con due giorni di chiusura e dopodiché il famoso caso Covid si è presentato anche lì. Era previsto che succedesse, niente di particolarmente strano, però un po' un dispiacere dover rimandare a casa una classe, giusto? Assolutamente, noi eravamo preparati, magari non ci aspettavamo che sarebbe accaduto così presto, però fortunatamente esistono dei protocolli ben definiti, c'è una preparazione dell'istituzione scolastica e quindi siamo stati pronti ad affrontare. Perché Alessandra Rucci è una dirigente scolastica così brava che si è un po', vabbè, scoraggiata, ho visto i tuoi post all'inizio, si è un po' scoraggiata perché davvero insegnanti, genitori, tutti lì a pulire per l'estate, sistemare eccetera, e poi una classe a casa non è una cosa bella. Detto questo, hai voluto ringraziare anche pubblicamente chi ha seguito la tua scuola, nel senso che il protocollo, raccontaci bene come funziona così per una volta lo capiamo, e soprattutto la notizia è che funziona questo protocollo. Dunque, nel nostro caso ha funzionato alla perfezione, il protocollo è che il Dipartimento di Prevenzione locale contatta il referente Covid della scuola, che in questo caso sono io come dirigente scolastico, e per ricoprire questo ruolo ho anche seguito un corso presso l'Istituto Superiore di Sanità. E quindi scatta il contact tracing, quindi noi inviamo al Dipartimento il flusso dei contatti, quindi tutti gli alunni, docenti che sono stati in contatto con il caso, e nel giro veramente di un'ora arriva a tutti quanti la telefonata e via mail il modulo di isolamento domiciliare obbligatorio. Si era detto che non sempre l'intera classe sarebbe dovuta stare a casa in caso di positività di uno studente, invece nel vostro caso è stato così. Sì, io credo anche per il fatto che siamo stati il primo caso in città, il primo caso scolastico in città, probabilmente si è usata una precauzione molto, molto alta. E questi ragazzi sono ancora a casa? Questi ragazzi sono ancora a casa con i loro professori, ma stanno facendo lezione normalmente da casa. Quindi non stanno perdendo niente perché stanno facendo di nuovo qui si può discutere didattica se a distanza. Il livello della didattica a distanza sia paragonabile a quello della didattica in presenza. Guardi, su questo io avrei qualche cosa da dire, nel senso che dipende molto, dalla classe, dalla preparazione dell'istituzione scolastica e dalla formazione degli insegnanti, perché se gli insegnanti sono molto ben formati e sanno che cosa vuol dire proporre un'attività didattica in e-learning, sicuramente, insomma, i risultati ci sono. Poi è ovvio che non tutti abbiano magari questa preparazione, ma credo che la stiano acquisendo pian piano i docenti italiani. E va bene. Bene, noi la ringraziamo Alessandro e soprattutto Rucci. Le facciamo grazie. Davvero tantissimi tantissimi in bocca al lupo perché grazie. La sua scuola merita merita davvero di... se no ti riaccusano sì poi, sì sì Maria si vanno Pia a rivedere le foto i cuscini hanno detto che i cuscini sono allergici sicuramente cioè, prenderai delle... anche soldi da questa sì, scuola sì sì mi paga ovviamente la scuola poi si sa che è un mondo molto ricco no sì, quindi... consulenze d'oro dorate di Maria Piera Ceci da parte dell'istituto Savoia Ben in casa di Ancona va bene grazie Alessandra cara presto. Maria Piera, niente, torneremo a occuparcene con te lunedì e poi... Ah, tanto oggi molte scuole sono chiuse per i seggi. Certo, non ci facciamo mancare nulla, no? Perché c'era stata tutta la polemica, sì. No? Nelle scuole... Dopodiché la polemica è sparita, le scuole sono richiuse per i seggi. E ragazzi, di nuovo a casa. Grazie Maria Piera, ci ritroviamo lunedì, noi andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, comunque che caschi l'occhio o no, certe ragazze che vanno in giro con i calzoncini dove gli escono fuori i glutei non fanno una bellissima impressione. Milan, ma che palle, oh, che palle, Milan! Non ho capito il senso di questo messaggio, cioè se quando vi lamentate magari spiegate anche il motivo della lamentela perché io non posso entrarvi nella mente e capire, mi fate una grande cortesia. Buongiorno, in Svezia ci sono stati morti come da noi, hanno 10 milioni di abitanti, andiamo a vedere quanti ne sono morti e va detto anche che il 40% degli svedesi vivono soli. Sono singoli in case, quindi dove non ci sono contatti con altri familiari. E questo va detto per cortesia. L'ha detto lei, signora, esperta di svedesi, comunque. Sulla questione sono morti abbiamo anche sviscerato questa questione. Forse per la cultura svedese morire è una cosa che viene accettata in maniera diversa rispetto a quanto facciamo noi. Ma non mi addentrerò in questa filosofica elucubrazione, ma il buon Leonardo Manera. E allora, il lunedì succede sempre questo, che c'è un problema con il codice dell'app. La prossima volta ci attiviamo alle 7:30 del mattino per cercare di risolvere questo problema. Ma il telefono funziona, Leonardo? C'è Leonardo? Non c'è. È una piccola storia amara. Allora, in questo momento alle 9:50 minuti Leonardo Manera è a casa e dice che non riesce a mettersi in contatto con noi. Non è su Marte, non è sulla Luna, non è partito per Venere. È semplicemente a casa, a circa 4, 5, 6 massimo chilometri da qui, con tutta la fibra ottica e tutti i collegamenti possibili, che è inimmaginabile. Con tutte le possibilità del mondo nel 2020 di connettersi anche dalla parte del mondo, anche in Antartide, ma non riusciamo a contattare il buon Leonardo Manera. Sicuramente la colpa è mia, che sto prendendo anche ulteriore tempo. Adesso lui arriverà qui, dirà che non c'è tempo per fare il suo pezzo, lo vorrà tenere per domani, forse per dopodomani. È tutta una scusa per non lavorare e noi lo sappiamo. Forse sta arrivando il codice con una tempistica abbastanza lenta, però tra poco verrà fornito a Leonardo Manera, che riceverà il codice sul proprio telefonino, dovrà memorizzare questo codice composto da 4 cifre, dovrà digitare il codice esatto sull'app per poi forse collegarsi e intervenire. Allora. Leonardo sì, Manera, buongiorno. Se mi viene fornito il codice sbagliato, ma se il codice vero. È sbagliato, se l'app non funziona, non è colpa di Leonardo Manera che era qui pronto già dalle 9:08. Secondo me. E tu cerchi di scaricare su di me la colpa, maledetto Alessandro secondo Milan. Secondo me, perché te lo diamo semplicemente per un gioco così simpatico, così mischiato. E tu devi, sono 4 cifre d'altronde, il numero delle combinazioni da provare non è tantissimo. Dovresti provare. Dai Manera, quinto sito quarterball. Dai, va bene. Non faccio in tempo, secondo me è meglio se lo tengo per domani. Eccolo. A che ora chiudiamo oggi? Tra quattro minuti. Quattro minuti. Non ce la faccio. Secondo me è meglio rimandare alle 10, perché poi non vorrei correre. Alle 10 c'è qualche ospite? Sì, oppure... sì, alle 10.05 c'è un ospite. Allora lo tengo per alle 10.15 c'è un altro ospite. E anche oggi si lavora domani. Caro Leonardo Manera. No, ma non è... Allora, in questo caso ci tengo a ribadire che io ero già pronto alle 9.08, anzi ci tenevo a fare il mio pezzettino come al solito, lo farò in chiusura, facciamo così. Così ti tieni per domani un personaggio. Esatto, mi devo un po' riprendere anche fisicamente, perché? Ieri ho giocato a pallone ah. con la nazionale comici contro le vecchie glorie di Milan e Inter. Ah. Ho giocato a pallone, abbiamo perso 6-3, io mi sono anche un po' stirato la coscia. E quindi meglio se fatico poco, ecco, va bene. Questo è, anzi, ma chi c'era, a dirla tutta, chi c'era tra le vecchie glorie di Milan e Inter? Chi c'era? Beh, c'era Pietro Vierkowood, per grande esempio. Gant avrà tirato, spero, una tacchettata sulle caviglie. Uno di quegli interventi duri ma giusti di Vierkowood. Bello, bello. Poi c'era Beppe Baresi, grande centrocampista mediano dell'Inter. Dell'Inter, c'era certo. Ganz che ha fatto un gol bellissimo, tra l'altro. Maurizio Ganz. Che Ganz è ancora un grande giocatore. Non so quanti anni possa avere, ne avrà adesso forse una cinquantina, sì. 48-50, ma corre ancora come un giovincello. Si è mantenuto in forma. E Beppe Baresi invece lì a centrocampo macinava palloni su palloni, come bei tempi. Sì, e tra l'altro mi ha fatto piacere sapere che Beppe Baresi ci ascolta di tanto in tanto. Dice, vi ascolto. Lo salutiamo. Sì. Lo salutiamo. Visto che tu giochi in quella zona di campo, ti ha anche lui fatto un paio di tackle duri sul ginocchio? Allora, cioè di quelli per a un certo punto mi ha detto Beppe Baresi, mi ha detto: certo che fra di voi dovreste avere qualcuno che sa giocare. L'umiliazione così, mentre tu ansimavi per una sgroppata, sì, sulla fascia. Sì, io ho cercato di allungare la gamba per un contrasto e subito mi sono strappato. E poi ho messo la borsa del ghiaccio sul pantalone e mi si è riempito il pantalone d'acqua e sembrava che avessi delle perdite urinarie. Perché dopo, quando ho fatto la doccia, ho messo il ghiaccio. Fammi sentire sul Luigi pantalone. Da Prato. Va, Luigi, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Eccoci. Prego. No, io avevo chiamato prima quando c'era il dottore. Sì. Che lavorava, sì, nell'OMS, per sapere, parlavano di sport, io pratico uno sport da contatto che si chiama Brazilian Jiu Jitsu, è una lotta a terra, si parte in piedi con il judo e si finisce a terra e si continua a lottare. È 6 mesi che non sto praticando quello sport, anche se è riaperto da 3 mesi, per paura di questi contagi, insomma, per non essere un problema. Cioè, faccia capire, potrebbe farlo, ma lei ha paura di... Potrei farlo, ma io ho paura di essere un problema per i miei parenti più vicini. E come facciamo? Ora, la domanda era da fare al professore di prima. No, come senso, era però, possibile però, capire... capire come mai uno sport del genere è aperto quando ci sono tanti paletti, diciamo, sanitari a giro... dove lì non si può usare la mascherina, perché capisce bene, una lotta a contatto fermo ma è chiaro, 5 minuti. Insomma, adesso, ma al di là del professor Bertolini, non so, cioè io mi affiderei... Allora, siamo in Italia abbastanza... siamo stati tra i più rigorosi e siamo tra i più rigorosi sulle normative. E infatti i risultati si vedono, insomma, siamo messi meglio. Se la normativa prevede che questo sport si possa riprendere normalmente con delle precauzioni... lo faccia, ecco. Poi su come vincere la paura non è che nessuno può darle il consiglio giusto. Io le direi: provi senza paura, nel senso che se è consentito lo faccia. Però Luigi, raccogliamo il suo timore, anche con il quale andiamo al giornale radio, perché poi nella seconda ora abbiamo tanti altri ospiti che faranno saltare quindi il pezzo di Leonardo Manera. E d'altronde questo è così. Aspetta Leonardo, dopo il giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Yes, Giuseppe, I agree. It will not be easy this year, because after 6 days of school, my son has already to go to the hospital to get his tampon done. Ciao, ciao. Altro che not be easy qui. Dramatic, dramatic, Giuseppe. Vabbè, una nostra ascoltatrice che è facendo un po' il verso alla nostra presigla. La nostra presigla, guardo l'Alpino, è a disposizione, nel caso, se vogliamo sentirla. La sigla che mandiamo solita è quella con il nostro premier, che dice che la situazione non è delle più facili, insomma, questa. I will not be easy, and it will not be easy. Eh no, non sarà facile. La nostra ascoltatrice aveva un bel inglese, secondo me. Parlava bene inglese. Ci ha detto che dopo sei giorni è andata a fare il tampon. Il figlio, il tampon. Vabbè. Ma tu hai votato, Leonardo? Tutto a posto? Non ci dire. No, non ho votato. Non ho votato perché le elezioni Enasarco cominciano dal 24 settembre. Io sono ansioso. Tra l'altro, è un sistema meraviglioso. Non che devi andare un giorno e al massimo il lunedì mattina. Sono dal 24 settembre al 6 ottobre le elezioni Enasarco. Quindi puoi votare quando vuoi, hai molta più libertà e quindi il voto è incentivato. Vabbè, perché niente. Avendo più tempo a disposizione, puoi votare il 100% degli aventi diritto. È entrato in sto trip. Vorrei che il sistema Enasarco venisse adottato a livello nazionale, così possiamo tenere anche le scuole chiuse per 15 giorni, evitiamo il possibile rischio contagio degli alunni e abbiamo più tempo per votare. Quindi Enasarco è un modello per tutta Italia. Vota Enasarco. Va bene, dai, alle 10:10 minuti la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Allora, visto che le urne sono appunto aperte, io non sarò dettagliato sull'episodio, ma che ci permette di parlare di un tema molto importante. Succede in un comune in provincia di Milano dove c'è una candidata alle comunali che è affetta da tetraparesi spastica e un rappresentante della città, anche in vista, fa un commento del tipo: ma vorrei sapere che contributo può dare una disabile, serve solo a intenerire. Allora, siamo ancora a questo punto, 2020, siamo a considerare la disabilità solo come una forma di sfortuna, come persone che non possono dare un contributo alla società, qualcuno dice un peso, un qualcosa che non va bene, siamo sempre lì. Marina Cuollo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Marina Cuollo è dottoressa in ricerca in processi biologici e biomolecole, è una scrittrice, si occupa da tempo di pregiudizi legati al mondo della disabilità. Ha scritto un titolo, tra l'altro, il suo primo titolo, Leonardo, senti che titolo meraviglioso, A Disabilandia si tromba, questo è il titolo. Finalmente qualcosa, no? Che va fuori dai luoghi comuni, ecco, allora, pregio. Marina Cuollo, nel 2020 siamo ancora qui a discutere, dire, la disabilità come fastidio o sfortuna o peso, eh? Eh sì. Insomma, sembra che non ci muoviamo mai, che non andiamo mai avanti nel tempo. Questo è molto, molto frustrante. C'è ancora l'idea continua che le persone con disabilità non siano in grado di contribuire attivamente alla società, che siano persone fragili, deboli e quindi chiaramente manipolabili, strumentalizzabili. La vicenda che è successa ne è un chiaro esempio, no? Ma però come si può rompere questa barriera? Passi in avanti credo siano stati assolutamente passi in avanti ne sono stati fatti, perché comunque adesso abbiamo una voce, riusciamo a farci sentire anche grazie ai social, che ci permettono comunque di dire la nostra. Un tempo, voglio dire, certe narrazioni esistevano e noi ce le dovevamo sorbire, perché i media tradizionali hanno sempre veicolato un certo tipo di narrazione pietistica, una spettacolarizzazione del dolore. Però insomma, in quel caso prima dell'arrivo dei social, nessuno poteva dire niente, o comunque le nostre voci rimanevano inascoltate. Adesso in qualche modo abbiamo un megafono e riusciamo a farci sentire. Gli attivisti e le attiviste che insomma contribuiscono a cambiare la narrazione sono tante e tanti, e questo si vede. Si vede molto. Io devo dire, forse anche la stessa Marina Cuollo, quando è nata, qualcuno avrebbe potuto dire: ma che contributo può dare alla società? Visto che lei stessa lo dice, nessuno avrebbe scommesso 1.000 lire. All'epoca c'erano le lire su di me, e visto la sindrome molto rara di cui soffre, ci sono credo un centinaio di casi in tutto il mondo, e invece è qui a fare un lavoro, a fare, come dire, a dare il proprio contributo alla società, come tutti noi, come Manera e come me, anzi forse più di Manera e più di me, e più del contributo che diamo noi. Comunque, quando una persona con disabilità raggiunge determinati obiettivi e traguardi, il modo in cui se ne parla è sempre come se fosse una cosa eccezionale o comunque particolare e eroica, perché in realtà le aspettative verso le persone con disabilità sono sempre basse. E quindi chiaramente appena una persona con disabilità si laurea, lavora o fa cose normalissime, diventa una notizia, si è laureato. Non dovrebbe, giustamente, ci richiama anche a questo, Leonardo, non dovrebbe essere più una notizia. Vi infastidisce? Cioè, vi piacerebbe essere considerati in modo diverso, senza che una cosa normale diventasse straordinaria per voi o per come viene riportata? Semplicemente essere valorizzati, giudicati per le nostre competenze e capacità, ma voglio dire, con o senza la disabilità, non è una caratteristica che ha bisogno di essere valutata, quindi voglio dire, è semplicemente una cosa che fa parte di noi, punto e basta. No, ma infatti, che contributo può dare questa ragazza candidata? No, giusto per rispondere idealmente a questo tipo di domande. Il contributo può dare, il contributo in base alle sue capacità, lo vedremo nel momento in cui comincerà a lavorare e a attuare il suo programma. Ecco. Voglio dire, una attesa normale, e vediamo quello che succederà. È questa la questione, non riusciamo, Leonardo, ad avere un approccio normale. C'è sempre questo atteggiamento, no? È difficile staccarsi da certi pregiudizi che la società ha sempre veicolato. È difficile, ma ce la si può fare. Perché poi alla fine probabilmente sono piani diversi, c'è il problema sicuramente della disabilità, ma poi il contributo in qualche modo che si può dare prescinde da quello. Io credo che siano proprio cose diverse che andrebbero anche considerate su piani diversi. Certo, assolutamente sì. Allora, Marina Cuollo, noi la ringraziamo. Tra l'altro devo dire, come ha sottolineato Leonardo Manera, un senso anche ironico. Io ho citato il titolo, anche nella biografia leggo che la sua sindrome genetica molto rara è la Melnick Needles, che dice non è una marca di siringhe, ma no, è una osteodisplasia scheletrica. Quanto può aiutare lo spirito, il modo di affrontare le difficoltà che tutti nella vita possono avere, più o meno? In questo caso parlo per me, chiaramente, sì? Perché l'ironia è stata un modo con cui io sono riuscita a liberarmi da certi condizionamenti che la società mi ha in qualche modo passato e che io ho introiettato, perché quando viviamo immersi in un determinato contesto, certi condizionamenti entrano in noi anche se non lo vogliamo. Per cui l'ironia per me è stato un modo per liberarmi, un modo per, diciamo, rilasciare quella rabbia e quella frustrazione in maniera positiva. Però ovviamente ognuno ha la propria strada per liberarsi e per in qualche modo venire fuori. Per me l'ironia è stata una grande salvezza, diciamolo. Se qualcuno si sente di percorrere quella strada, sicuramente si farà un paio di risate in più che male non fanno, no? Assolutamente no. Grazie. Ma è solo una curiosità, quanto viene considerato un tabù la sessualità? nel mondo della disabilità. Moltissimo, e probabilmente uno dei più grandi tabù, perché le persone con disabilità vengono viste sempre come eterni bambini, per cui diciamo la fase adulta della vita per voi è come se non esistesse agli occhi degli altri. La sessualità, che è parte di una fase adulta della vita, quindi ci viene preclusa, per cui sì, è un grandissimo pregiudizio. Si cerca di abbattere anche quello, chiaramente. Certo, e si fa, noi ne avevamo parlato anche di recente con i corsi che venivano organizzati sull'affettività, sulla sessualità, ne avevamo parlato lo scorso anno. Noi, davvero Marina Cuollo, grazie per essere stata con noi, per averci detto delle parole importanti, io credo. Come parole importanti, credo, ci dirà l'ospite che ci raggiungerà dopo il traffico. Partiamo da uno spunto di cronaca: a Padova sono stati aggrediti in centro ancora due gay che si baciavano, succede anche questo nel 2020, e denunciano tutto quanto. Ne parleremo con lo scrittore Jonathan Bazzi tra poco. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Dieci e venti minuti, siamo qui, caro Leonardo. Allora, io... incredibilmente ancora, lo so già tanti messaggi che arriveranno, ma li voglio ignorare, non voglio guardare i WhatsApp per questa vicenda di due ragazzi di Padova che denunciano un'aggressione in centro perché ci siamo baciati, e tra l'altro denunciano nell'aggressione anche, tra gli aggressori, anche due ragazze. Non so perché anche questo, Leonardo, faccia sempre notizia, cioè, spesso si deve pensare che le ragazze siano meno aggressive se vedono... Più aperte, a volte non è così. A volte non è necessariamente così. Sicuramente, ecco, non mi vedo un gruppo di cinque ragazze che aggrediscono due gay. Magari una presenza maschile me la vedo sempre nel cosiddetto branco. Comunque vogliamo salutare uno scrittore, è diventato celebre anche con il suo libro Febbre, che è diventato finalista al premio Strega, Jonathan Bazzi. Buongiorno e grazie. Buongiorno, ciao. Allora Jonathan, che dire intanto di questa vicenda? La dobbiamo derubricare a notizia di poco conto oppure una notizia importante? No, io credo sia assolutamente importante, e perché è uno di quei classici picchi, cioè quei casi, diciamo, che esplodono, dove appunto l'omofobia e la cultura dell'intolleranza esplodono, ma che raccontano però di qualcosa invece che è molto più comune, molto più diffuso, che sono le microaggressioni e i continui tentativi di soppressione delle identità altre, che sono appunto qualcosa di assolutamente endemico e diffuso, solo che nella maggior parte dei casi, anche per una questione di vergogna, di pudore, quando si tratta di cose appunto che non sfociano in questi eccessi, restano sommerse, invisibili. Sì. Quanto nella tua vita c'è stato, ma Jonathan Bazzi ha raccontato, ha fatto coming out qualche anno fa, raccontando anche cosa che ha fatto nel suo libro, la sua sieropositività, quanto nella tua vita ci sono stati, nella Rozzano in cui sei cresciuto, nella periferia sud di Milano, ci sono stati episodi simili, se ce ne sono stati? Beh sì, ci sono stati chiaramente con una frequenza maggiore quando ero piccolo, diciamo tra le scuole elementari e le scuole medie, ma sono continuati nel corso del tempo senza sfociare in appunto estremi come questi, però diciamo, il venire a contatto con una certa resistenza e con lo scherno, la derisione e le tante forme dell'insulto è qualcosa che le persone LGBT sperimentano sempre, e a me capita di sperimentarlo anche ora che vivo a Milano, quindi ecco, è sicuramente poi nelle periferie, nei contesti in cui la scolarizzazione è più bassa, è chiaro che c'è una certa tendenza all'esplosione, ma non è qualcosa che riguarda solo i contesti degradati, solo le periferie. Ma no, c'è dappertutto, certamente. Beh, qui è avvenuto per esempio questo caso a Padova. A Padova, esatto, pare in pieno centro. Ma è successa anche una cosa particolare che riguarda Jonathan Bazzi. Jonathan Bazzi collabora con Il Domani, il nuovo quotidiano, direttore Stefano Feltri, ha scritto un reportage sulle scuole di Rozzano, insomma, da scrittore, da cittadino che è cresciuto lì. È successo, ma è vero che è successo che, non so se siano collegate le due cose, però a pensarlo un po' si può anche pensare male, hanno cancellato la presentazione del tuo libro, Febbre. Esatto, io avevo fissato una presentazione per il 26 settembre alla biblioteca di Rozzano, che è appunto una biblioteca comunale, quindi sotto il potere organizzativo dell'amministrazione, della giunta attualmente in vigore, e il giorno dopo l'uscita del mio pezzo su Rozzano, sulle scuole, sulla ripresa dell'anno scolastico e anche le difficoltà, i malumori e un certo clima pesante che c'è tra sia genitori che professori, il giorno dopo appunto mi è arrivato questo messaggio piuttosto secco, sbrigativo, in cui mi veniva comunicato che per motivi organizzativi la presentazione era annullata. Saltava, esatto. Ma Leonardo, noi venerdì siamo stati a Treviso a un incontro, io citavo il libro di Bradbury, Fahrenheit 451, nel quale i pompieri bruciavano i libri in questo futuro distopico. Ora non siamo a bruciarli, ma siamo, come dire, a censurarli, evidentemente, perché se uno ha delle idee magari non condivise, vanno censurati. Qual è la strada per... Qual è la strada per cambiare direzione? Nel senso, se ci sono ancora questi pregiudizi e continuano a resistere, no, cosa si può fare? Sì, ecco, cioè, tra l'altro questo episodio, che poi appunto siano le cose andate davvero così o meno, però sembra una conferma di una delle mie idee, una delle tesi che poi c'erano in quel pezzo, cioè che i problemi, parte quantomeno dei problemi dei posti come Rozzano e delle periferie, è che vige anche una cultura dell'omertà, del nascondimento, dove sia da parte di chi appunto amministra quei comuni, quei quartieri, ma anche da parte della popolazione, per una questione forse anche di autorappresentazione, di autostima, ci si smarca sempre da dei tentativi di dire le cose come stanno. No? E io credo che questo tipo di atteggiamento, dove appunto si dice no, qua ci sono tanti servizi, c'è anche tanta gente per bene, credo che non consenta poi di cambiare le cose. Certo. Jonathan, noi ti ringraziamo, vai avanti con il tuo lavoro. Io sottolineo questo libro, che ripeto è andato in finale allo Stega, è bellissimo, ha avuto anche un grande successo, Febbre, edito da Fandango, e che ha portato anche alla ribalta e affermato. Forse non è stato presentato perché, sai, con la febbre subito potrebbe esserci il Covid, quindi è meglio evitare di mettere subito in quarantena il libro, diciamo, esatto, per un po', forse che non si verifica, Jonathan, che non sia un caso di... Forse Jonathan, non ci avevamo pensato, ci sei ancora, è quello, è il titolo, Febbre di sti tempi, scusa, ti sei presentato con Febbre e basta, non c'era neanche bisogno di controllare la temperatura, Covid, isolamento. Ma guarda te che a volte proprio le cose più banali sono le risposte più efficaci. Va bene, grazie Jonathan Bazzi per essere stato con noi. Caro Leonardo, sai che sono arrivato in redazione e sfida Luchetti mi ha guardato e mi ha detto: oh, ma ho saputo che, ma incredibile, ma l'Inter ha vinto 7-0 ieri. Gli ho detto: ma lasciali perdere, era un amichevole, dai. Guarda qua, è arrivato Mauro Meazza. No, giustamente ieri partiva il campionato, le squadre minori partono un po' più avanti devono ancora, sai perché partono più avanti quelli dell'Inter? Devono ancora smaltire i festeggiamenti per l'Europa League, devono finire di festeggiare. Ah sì, col Siviglia. Sì, devono... hanno festeggiato a lungo, hanno finito la stagione. Mauro Meazza, perché mi guardi così? Si capisce anche sotto la mascherina che mi sta guardando in maniera incagnesca. Guarda, io faccio un pronostico. È l'anno dell'Inter. È l'anno dell'Inter, ma io ne sono convinto davvero. Ah, vabbè, ma perché la Juventus è partita bene, ma poi avrà secondo me un calo a primavera. L'Inter faticherà le due prime tre giornate e poi andrà come un treno. Sì, noi abbiamo Ibrahimovic che però insomma ha il problema dell'età. Esatto, cammina in campo. Napoli si affermerà, però secondo me non è ancora pronta. Le squadre di Roma faranno un buon campionato. È l'anno dell'Inter, basta, dai. Meazza, dai. Cuciti lo scudetto direttamente. È l'anno dell'Inter. Qui lo vogliamo dichiarare alle 10:30 minuti? Abbiamo già dichiarato, abbiamo messo la nostra scommessa. Quanto punti tu? Guarda, 100 euro. Secondo me non lo quotano neanche, perché devi puntare, credo, 5.000 euro per vincerne 10. È talmente l'anno dell'Inter che non credo accettino più scommesse. Con chi era l'amichevole ieri? Col Pisa. Loro giocano solo con quelli che hanno la maglia dello stesso colore. Hanno la stessa maglia. Sì. Perché così si mettono d'accordo tra maglie e maglie. Dai, borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Can't get these memories out of my mind. Allora, le 10:37 minuti, caro Leonardo. Ma come stai? Come è iniziata la tua settimana lì in quel di Piazza Udine o da quelle parti? Te l'ho detto. Adesso ho anche trovato la scheda elettorale e quindi poi andrò anche a votare. Ah, ecco. E un po' di dolore ino alla gamba per lo stiramento di ieri, ma nel complesso bene. Ho fatto una buona dormita stanotte, ho dormito abbastanza serenamente. Sì, dopo giustamente dopo anche la partita di calcio ti sei sfogato. Vogliamo ricordare quello che ti ha sussurrato all'orecchio Beppe Baresi mentre ti ha incrociato ieri nella partita tra comici. E mi ha detto certo che tra di voi dovreste avere qualcuno che sa giocare. Per questa battuta potevi già ingaggiarlo nella nazionale comici o artisti al volo, cambio di maglia. Beh, effettivamente, cioè, come avete fatto a fare 3 gol, peraltro? 6-3. Ma sì, perché poi un po' ce li hanno fatti fare, no? Quando hanno visto che c'era una superiorità così evidente e manifesta, un po' hanno mollato. E chi è che ha segnato tra gli artisti? Sai che non ricordo. Mamma mia, ragazzi. Però la cosa bella è che arrivati a una certa età, perché anche loro ormai sono intorno ai 50, non devi più forzare, stai lì, cammini, giochi, e in qualche modo è anche più divertente. Fai no? Girare fai la tua palla, corsa, come si suol dire. Fai girare per la chi palla. È capace, sì, ma in generale comunque cammini, è come fare una scampagnata col pallone. Ecco. Bello. Quindi da questo punto di vista è bello. Solo che loro camminavano e facevano girare la palla e voi rantolavate per il campo, questo mi sembra di capire. Ma io quante volte ho proposto di fare una squadra di Radio 24 per scontrarsi contro altre squadre che ci sono ovunque. Sarebbe bello, in modo che anche tu, poi, nonostante l'ironia che fai, ecco, tu possa poi dimostrare le tue capacità. Su questa frase è entrato in regia Sandro Fortunati, è entrato in regia subito appena sentito la necessità di una nazionale Radio 24, insomma. Lui si propone subito come terzino di spinta, già. Terzino di fascia. Sì, ci siamo già, c'è Sandro Fortunato. Ah che no, può lui, Fortunato lui che secondo me può fare il medico, perché può fare il medico per gli infortuni, può intervenire come lascia fare. Va bene, dai, sentiamo Stefano da Brescia. Stefano, buongiorno. Ecco, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, ascolti, io ho sentito che date parecchio spazio per le lezioni del Nasarco. Io le invito a tutti i rappresentanti. No, le lezioni del Nasarco, attenzione, no, cioè, ma esiste la par condicio, non lo so. Sentiamo cosa, la telefonata. Cosa vuole invitare a fare, Stefano? No, è una cosa piuttosto seria, però di là il fatto ci si può divertire. Però in realtà è un ente che è potentissimo, amministrato in maniera, diciamo, clientelare negli ultimi 40 anni. Vabbè, però dove, no, Stefano, no. No, non possiamo fare la campagna. No, scusi, no, Stefano, no, no, ma io non voglio fare campagna. No, no, non voglio fare campagna per nessuno. Però è un invito. Aspetti. A votare. Perché no? Vi spiego anche una cosa. Sì. Tra i tanti guai che hanno creato le Nasarco, sì, perché bisogna sapere dal momento che è una radio libera. Tu no, non sai maniera in che guaio. Sì, esatto, ci sono la bellezza di un numero elevato di rappresentanti che, se non raggiungi 20 anni di versamento, ed è l'unico ente in Italia, perdono completamente quella che è la possibilità. Stefano, lei mi mette in un guaio, cioè io dopo, in questa trasmissione, nella quale in maniera così simpatica ha sposato questa cosa, vota il Nasarco, cioè vado a votare il Nasarco, se lei mi viene a dire una cosa che evidentemente è appartenente a una lista, non voglio sapere, poi adesso ci chiameranno dicendo avete detto questo, adesso vogliamo noi avere diritto di... No, non è una trasmissione, certo, nella giusto, quale i rappresentanti delle Nasarco intervengono. Allora io farei, Stefano, una puntata, scusi, intera, non si scusi può organizzare, no, non si può organizzare una puntata Ma vai a lavorare su Radio Birichina e fai una puntata su Nasarco. Salutiamo tutti gli amici. È un grande ente che sarebbe di interesse generale per tutti gli italiani. Domani organizziamo una puntata tutta su Nasarco con i rappresentanti delle varie liste, la lista 1, 2, 3. Non sono sempre bocciate. Ma non è il cuore della nostra trasmissione, non ci occupiamo di quello. Non ho detto che non è importante. Sì. No, tu fai la tua cambierei il titolo della trasmissione. Farei uno nessuno e Nasarco. Manera presidente delle Nasarco. No, Stefano, scusi, se no entriamo in questa cosa anche sulle varie liste di Nasarco. No, dai, prendiamola come il gioco di Manera che non doveva fare. Peraltro, però poi basta. Daniele da Pisa. Non è colpa mia. Sì. No, è colpa tua, è colpa tua come quasi tutto qua dentro, quando va male una cosa. La colpa è della lista che ha iniziato per primo a fare pubblicità su Radio 24. Daniele, salvaci tu. Ed è subentrato il mio interesse per questo. Daniele, vai. Buongiorno Alessandro, ciao Leonardo. Leonardo ogni tanto lo sento su Instagram, gli mando qualche messaggino, sono quel fisioterapista non vedente. Ciao. Ciao carissimi. Come va? Io volevo parlare che, nonostante la mia disabilità, che è da 12 anni e mezzo che ho perso la vista, praticamente ho avuto una famiglia che mi ha dato una grande mano, ovviamente, che è fondamentale in quei momenti, a quell'età lì. Mm. Però poi non mi sono mai perso d'animo, perché ho detto: ma perché devo non dover vivere bene perché mi manca la vista? Ho avuto gente vicina positiva, tanti amici. Ho fatto la mia vita, ho fatto il mio percorso scolastico, sono diventato un fisioterapista, mi sono sposato la prima volta, due figli, mi sono risposato perché mi sono divorziato dalla mia moglie, quindi io ho fatto, ritengo, una vita più che normale, e vorrei che questo mio intervento vuol far capire che non è, come diceva l'intervento di prima, che noi siamo degli eroi perché facciamo determinate cose. Certo. Io mi ritengo una persona normalissima che voglio giustamente essere né leccata Infatti Marina Cuollo diceva quello che dicevi tu, cioè non tramutiamo in eroi coloro che con le disabilità fanno delle cose come, non so, laurearsi o raccontare la tua vita. Posso chiedere, perché un conto è, non so, nascere senza vista, un conto è perderla, no? Puoi raccontare, insomma, in breve il tuo percorso e che cosa ha significato questo? Sì, diciamo che tanti mi dicono questo, che nasce forse per certi versi è meglio. Io dico no, io almeno per 12 anni e mezzo ho visto, diciamo che se te mi descrivi determinate cose, una forma, un colore, io l'ho visti, li ricordi, li visualizzi, diciamo così. Visualizzo, focalizzato nella mente queste cose, che riesco a riprodurle anche se te mi descrivi un film. Io vado, sono andato tante volte al cinema con gli amici, con la moglie, perché dice, ma se non vedi il film come fai a capirlo? Come? L'audio è importantissimo, e poi la descrizione della persona che è vicino è fondamentale, perché comunque se mi descrivi un prato verde, mi descrivi un albero con le foglie, certo, avendolo gialle, visto, bianche, sai, certo, di che cosa, esatto, che cosa è più facile. Quanto, esatto, quanto tempo ci hai messo ad accettare questo problema? Come dicevo all'inizio, senti, il fatto è che avendo avuto una famiglia eccezionale vicino, un fratello in gambissima, io non ho avuto grandi problemi a accettarla in modo abbastanza veloce la condizione. Certo. Fra vari ospedali italiani siamo andati anche a Barcellona, siamo andati in Svizzera, però i percorsi che ho fatto anche a livello ospedaliero non sono stati traumatici, non sono stati, essendo che avevo vicino i miei genitori che mi hanno dato una mano morale, ovviamente, che è importantissima. Beh, insomma, gli amici, gli affetti, le persone vicine poi fanno la differenza nella vita per tutti noi. Per tutti noi. E allora, Daniele, grazie, richiamaci ogni tanto, raccontaci un po' come va, che cosa fai, che progetti fai. Ogni tanto senti anche Leonardo, so, e mi ha fatto piacere di questa chiamata. Grazie Daniele da Pisa per questa telefonata. Andiamo a sentire informazioni sul traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Ecco, ci concludiamo con un Elvis Presley, annata, però un suspicious mind così. Vabbè, allora chiudiamo la puntata con tutta Suspicious Mind di Elvis Presley e ci troviamo domani, no Leonardo? Sei d'accordo? Ma io sarei d'accordo. Anticipiamo un po' due di denari e quindi eccoci, lasciamo più spazio. Un altro bel monologo che salta e ce lo teniamo per dopodomani. Allora oggi il monologo è incentrato su Enas Arco. No, no, non è vero. Non è vero. Vabbè. Sulle lezioni e Nasac. No, non è vero. Allora, se pro. Giuri che non è vero? Giuri. Giuro che giuretta, Enasarco non c'entra. Fai giuri in giuretta. Fatto, vabbè. Enasarco non c'entra. Ne parleremo domani di Enasarco. Allora, in modo compiuto e completo, dando spazio a tutti i rappresentanti delle liste, delle varie liste. A te il microfono. Questa mattina, tra poche ore, tra poco, si chiudono le urne per il referendum e anche per alcune elezioni amministrative. Poi, a partire dal pomeriggio, arriveranno i primi dati. E probabilmente, qualunque sia il risultato, chiunque vinca, a destra o a sinistra, gli sconfitti diranno «rifarei tutto quello che ho fatto», perché ormai chi ricopre posizioni di potere, politico o dirigente di qualsiasi livello, non ammette mai di avere sbagliato. La frase di rito è sempre quella «rifarei tutto quello che ho fatto», per esempio «hai perso metà dei voti che avevi il turno precedente», «rifarei tutto quello che ho fatto». Non hai gestito al meglio il periodo in cui eri capo? Rifarei tutto quello che ho fatto. Nella mitologia greca c'è perfino una dea, la dea Ate, che rappresenta l'errore e che quindi può far parte della vita delle persone e perfino degli dèi. Invece per i nostri politici, per i nostri amministratori, per i nostri capi, l'errore non esiste mai. Rifarei tutto quello che ho fatto. Forse pensano di mostrarsi più forti ai nostri occhi, agli occhi del popolo. Guarda come è sicuro di sé, come va dritto per la sua strada. Io personalmente invece, se vedo qualcuno che nemmeno di fronte all'evidenza non ammette mai gli errori, penso che sia un po' ridicolo. Non ammettere i propri errori è anche un modo per non doversi dimettere, perché se qualcuno dicesse, in effetti avrei potuto fare meglio, gli avversari politici o anche solo i compagni di partito potrebbero obiettare bene, allora perché non te ne vai, non trai le conclusioni? Invece no, con quella frase piena di protervia, rifarei tutto quello che ho fatto, si vuole ribadire la correttezza di ogni scelta, anche di quelle più sbagliate, rifarei tutto quello che ho fatto. Pensate invece che bello se un politico oggi pomeriggio, domani, di fronte a una mancata affermazione prevista oppure a una sconfitta imprevista, andasse davanti alle telecamere e solennemente dichiarasse «ho fatto una cappellata, ho sbagliato, ho condotto male la campagna elettorale, chiedo scusa al mio partito, ho esagerato». Ho minimizzato le difficoltà, ho portato il mio partito alla disfatta, ho perso molti voti, ho perso male, mi ritiro, mi dimetto, rinuncio. non lo farà nessuno, non lo fa più nessuno ormai. Si va affermando una specie di mito del superuomo politico che, di qualunque parte politica sia, come il bullo delle scuole elementari, non se la sente mai di fare atto di contrizione, di ammettere i propri errori. Solo che non si tratta di scuole elementari, ma delle classi dirigenti del nostro paese. Io, se diventassi segretario di partito, in un mio ipotetico programma comincerei proprio elencando tutti gli errori che ho fatto in passato, anche nella mia vita di normale cittadino, di uomo. Per esempio, ho sbagliato quella volta al mercato da bambino a spendere tutti i miei risparmi per comprare un anellino a mia madre che pensavo fosse di valore e invece era della più balorda bigiotteria. Ho sbagliato a trascurare quella ragazza che poi mi ha lasciato quella sera in un'area di servizio sulla Milano-Venezia. Ho sbagliato a comprare quella macchina usata che dopo 3 viaggi mi ha lasciato a piedi e mi ha causato anche la gastrite che ho dovuto curare con appositi inibitori di pompa protonica. Ho sbagliato quella volta con mio figlio, con quel mio amico. Ho sbagliato con tutti, sempre. Nella vita sono stato capace solo di fare un mare di cappellate, non ne ho fatta una giusta. Non so se sarebbe la strategia corretta per conservare il potere o per raggiungerlo, in effetti ho qualche dubbio, però almeno sarei sincero e credo che gli elettori in fondo apprezzerebbero il messaggio. E poi sicuramente, avendo tanti errori da farmi perdonare, potrei andare a chiedere scusa, c'è posta per te, e iniziare una nuova carriera mediatica, essendo finalmente apprezzato dal pubblico del sabato sera generalista, pronto eventualmente a cominciare a votarmi. E allora, votate in maniera, presidente. No, scherzo, assolutamente questo non succede. Sono già arrivate sfida Lucchetti, tante telefonate di protesta, gente che per cosa? No, basta, no, non per il tuo monologo, ma per l'intervento prima dell'ascoltatore. Sai che c'è? Ah, immaginavo. Tantissimi dicono Leonardo Manera presidente dell'Enasarco. Cosa faresti? Qual è il tuo primo punto programmatico? L'ho detto prima, ammettere tutti i miei errori precedenti, sì, certo, nella vita, in modo da dire anch'io, sì, posso sbagliare, ho fatto un sacco di errori e continuerò a farne. Ecco, questa è la chiave. Oppure, secondo me, la chiave è dire ho fatto tanti errori e continuerò a farli, in modo che poi non mi si possa rinfacciare niente. Se uno fa errori in buona fede, sì, in fondo, sì, no, può anche essere perdonato. Vabbè, così, e quindi, così io, non... Ecco, il mio programma elettorale sarebbe quello. Va bene. Continuare a sbagliare. Non credo che per questo verresti eletto. Però così, salutiamo tutte le persone che ci hanno scritto ringraziandoci di essere passate da Treviso, ma siamo noi che ringraziamo tutti coloro che sono venuti a trovarci a Treviso. Tu poi sei stato a Vigevano, com'è andata a Vigevano? Beh, veramente una bella serata, direi la più bella della stagione fino adesso, ecco, dell'estate. Ringraziamo perché... tutti coloro che hanno partecipato alle altre serate, che sono peggiori. Perché? Ti spiego perché. Perché era una bella atmosfera rilassata, serena, non incombeva il coronavirus, sembrava che fosse una cosa lontana, e quindi abbiamo passato una serata divertente, io e l'altro comico che c'era, Giancarlo Calabrugovic. Tutti appiccicati, bravi, belli assembrati. No, tutti appiccicati, in un'atmosfera serena dove il virus per una sera è stato lontano dai nostri pensieri. Io ti conosco, sai qual è il tuo problema? Tu minimizzi. Non minimizzo, è lei che minimizza. Tu minimizzi. Non dovresti minimizzare. Questo è il problema. Tu invece minimizzi e non dovresti minimizzare. Allora, signori, alle 10:54 minuti vi lasciamo con la coda di Elvis Presley. Ci troviamo domani. Ci sarà anche Leonardo Manera fisicamente presente, forse. Così dici? Dico. Ah, io questo non lo sapevo. Me lo stai dicendo tu adesso. Vedi? Veramente me l'hai detto tu. Questa settimana pensavo di non venire completamente. Non entriamo in questa diatriba da Sandra e Raimondo, dai. Avevi detto che venivi, ma tu adesso minimizzi. Va bene, mi presenterò in loco. Va bene. Elvis Presley, signore.